Storiacce di Raffaella Calandra. Nel 2013 3.385 persone sono morte per incidenti stradali. In pratica ogni giorno sono morte quasi 9 persone. Ebbene, il 23 marzo 2013 è morto anche mio padre. Eleonora è una collega, ma stavolta qui parla come figlia. Eleonora Micheli è una giornalista di Radiocor, ma quello che ha voluto raccontare a Storiacce è il suo dramma, che condivide purtroppo con moltissime altre persone. Il dramma di una ragazza che ha visto morire il padre travolto da un'auto e che poi ha conosciuto le lungaggini della macchina giudiziaria, le inefficienze di certi tribunali, l'incredulità davanti alla scarsa risposta della giustizia e da ultimo pure l'offesa per gli applausi del Parlamento che ha stoppato la tanto attesa legge sull'omicidio stradale. Ma cosa succede sulle strade dove continuano ad aumentare i pirati, come quello che ha investito un motociclista sul raccordo anulare di Roma e poi è andato regolarmente a lavorare? Che succede se anche sul marciapiede può capitare di essere uccisi? Che succede se i genitori di un bimbo trascinato ed ammazzato non riescono ad avere neanche il risarcimento e se, come è successo ad Eleonora, neanche la patente è stata ancora tolta all'ottantenne che ha investito il padre? Cambierà qualcosa con la nuova legge? Con queste domande parte questa nuova puntata di Storiacce. Se non ci pensa la legge, ci pensa un familiare arrabbiato. Mio papà stava venendo da me. Mio papà era la fermata dell'autobus. Mio papà aveva 59 anni, era un uomo sano, pieno di vita, pieno di spensierato, tranquillo, perché dopo 30 anni che ha servito il suo paese si stava godendo la pensione e il suo paese ha diritto, il diritto sacrosanto di dargli giustizia. Il dolore di Sara diventa rabbia, forte, e dà voce in modo diretto a quello che migliaia di italiani provano, quando la tristezza di un lutto si unisce allo sconcerto per una risposta della legge considerata inadeguata, quando tutto sembra non dover cambiare mai, visto che anzi nel 2015 i casi di pirateria stradale sono aumentati, con 1.087 casi e almeno 146 morti, secondo i calcoli dell'Associazione Sostenitori della Polizia Stradale, che sentiremo tra poco. Nelle stime di quest'anno, invece, sarà compreso pure il papà di Sara, Giuseppe Buttaro, l'ex finanziere pensionato di 59 anni, falciato da un'auto a Genova mentre andava a trovare i nipotini. Se io sono a conoscenza che il colpevole di chi ha ucciso mio papà rimane gli anni in galera che deve fare, la pena se la sconta, ma non che gli viene data una pena e poi a metà della pena esce fuori dopo un anno, no, allora... Certo che io rimango dell'idea che ci penso da sola, che ci pensiamo noi. Un grande senso di rabbia e di impotenza davanti rabbia, a queste leggi. Impotenza, frustrazione, odio, perché io potessi andare ammalato, lo ucciderei con le mie mani, ma lo giuro. No. Il vostro è un po' proprio un appello a dire ad approvare velocemente questa legge. Certo, perché io stamattina sono andata a prendere gli effetti personali di mio padre dai vigili. Mi è stato detto che non lo volevano neanche arrestare. Ma stiamo scherzando, appena travolto una persona, appena ucciso una persona. Perché se ci fosse stata invece la legge sull'omicidio stradale, le pene sono molto più pesanti e quindi... Oltretutto mi hanno detto che ha precedenti. Ma a quante persone deve ancora succedere? A me il prossimo anno mio figlio va alle superiori, va a scuola da solo. Devo avere paura che va sul marciapiedi. Cioè alla fine non ci si sente protetti e tutelati. Lo Stato che fa le cose importanti le lascia allo sbaraglio e le persone continuano a morire. L'autista dell'auto che ha ucciso a Genova Giuseppe Buttaro è stato portato in carcere, come pure è stato arrestato e accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso che ha ucciso un motociclista sul raccordo anulare di Roma e poi è scappato. Ha lasciato l'auto ed è andato regolarmente al lavoro. E a 2 anni è stata condannata l'ottantenne che ha travolto il papà di Eleonora Micheli. Ma al di là della pena, quello che ancora di più l'ha turbata e lasciata incredula è il fatto che 3 anni dopo i fatti nulla è stato ancora applicato e neanche la patente è stata tolta a quella donna. Un'anziana donna guidava spericolatamente, non rispettando i limiti di velocità, e così ha violentemente tamponato mio padre, che purtroppo è deceduto sul colpo. Una persona che, nonostante l'età che farebbe presupporre saggezza, mai si è fatta viva nemmeno con due righe di condoglianze. Inutile descrivere il dolore, la rabbia, lo sconforto. Una rabbia che diventa ancora più grande quando si scopre in prima persona l'esiguità delle pene che colpiscono chi ha posto tragicamente fine a una vita umana. Una normativa sull'omicidio stradale è dunque necessaria e in fretta. Brucia quindi apprendere che in Parlamento scrosciano applausi solo perché la normativa è stata ancora rinviata nel rimpallo delle approvazioni. Applaudire non si può quando si parla di incidenti mortali. L'amarezza di una figlia che perde il proprio padre prosegue dopo, anche in tribunale, tra le lungaggini e la burocrazia, oltre che la delusione dell'esigua pena che si riduce di fatto a 2 anni di ritiro della patente. E per di più, quasi dopo 3 anni dall'incidente, l'anziana signora ancora guida in serenità. Questo perché la sentenza giace presso la cancelleria del Tribunale di Siena, nell'attesa dell'ok da parte di qualche funzionario. Intanto però mio padre non c'è più. Ritardi in cui un peso sembrano aver avuto anche gli sguidi provocati dalla riorganizzazione dopo l'accorpamento con Siena dei tribunali minori della zona. Una riforma, lo ricorderete, osteggiata in molte parti d'Italia, ma dettata dalla ricerca di una nuova efficienza della macchina giudiziaria che, come una litania, continua ad essere descritta ingolfata ad ogni inaugurazione dell'anno giudiziario. Il risultato concreto però è la sfiducia provocata in chi almeno vorrebbe una risposta dallo Stato al risarcimento, sia pur parziale, del proprio lutto. Invece le nostre cronache sono piene di storie di autisti che non passano neanche per il carcere dopo aver causato incidenti mortali, o che dalle celle escono molto presto perché con le accuse colpose le pene non possono andare oltre una certa soglia, oppure ancora, come è capitato a Milano a Stefan Postu, che quando già stava scontando la sua condanna a 16 anni per uno dei pochi casi riconosciuti di omicidio volontario, ha visto invece arrivare la libertà dopo un problema di notifica, un nuovo appello e una sentenza che ha ribaltato il verdetto. E lui ora dunque è libero. E tutto questo fa aumentare la leggerezza con cui si guida, anche dopo aver bevuto casomai o assunto droghe, come nella maggior parte dei casi più gravi è successo. Tutti concordano che pene più severe sarebbero da deterrente contro un aumento della pirateria stradale che, come conferma Giordano Biserni, presidente dell'ASAP, ha visto un incremento record nel 2015. Bisogna cominciare a intercettare sulla strada con le divise chi è ubriaco, chi è drogato, chi usa il cellulare, chi non allaccia le cinture, chi tarocca il cronotachigrafo sul veicolo pesante. E le do un dato sull'osservatorio della pirateria stradale. Nel 2015, si deve sapere, visto che hanno bloccato l'omicidio stradale per paura di non incentivare la pirateria stradale, non si preoccupino più di tanto, perché nel 2015 noi abbiamo registrato circa 1100 episodi di pirateria grave, con 146 morti da pirati della strada rispetto ai 109 del 2014, più 22,6%. Quindi non è l'omicidio stradale che può causare chissà quali e fughe ulteriori, perché già adesso la situazione è estremamente drammatica. Cioè, come promotori della legge sull'omicidio stradale, se fosse stata approvata, per esempio, all'uomo che ha investito e travolto il pensionato ligure, sarebbe stato già contestato il reato di omicidio stradale. La storia sarebbe stata completamente diversa, perché in questo caso specifico quel signore avrebbe rischiato una pena che va da 8 a 12 anni e soprattutto una revoca dalla patente fino a 20 anni, perché ha ucciso ubriaco e drogato alla guida. Facciamo capire qual è il punto della sostanziale differenza che c'è tra l'introduzione del reato di omicidio stradale e quello che già succede, cioè il fatto che per lo più viene contestato l'omicidio colposo. In alcuni casi ci hanno provato a contestare l'omicidio con dolo eventuale o l'omicidio volontario, però in sostanza, ecco, c'è una differenza sostanziale nel termine di numero di anni come pena, ma soprattutto poi anche di revoca della patente. Assolutamente sostanziale. Finora si è viaggiato sempre con l'ipotesi del dolo eventuale, non si è mai arrivato in porto, tranne nel caso del conducente che ha fatto il contromano sulla A26 ad Alessandria, ha ucciso i 4 ragazzi francesi e è stato condannato per omicidio volontario, ma è un caso assolutamente sporadico. Oggi, con la situazione attuale, l'omicidio colposo, neanche nella forma più aggravata, prevede pene che vanno da 3 a 10 anni, possono arrivare a 15 anni se c'è più di una persona uccisa, ma la questione che non funziona qual è? È la pena minima di 3 anni, perché la pena minima di 3 anni fa sì che nel giudizio si parta da una pena base di 5-6 anni, si concedono le attenuanti generiche, si fa il patteggiamento e si scivola sempre sotto 3 anni e liberi tutti, per cui le pene sono scritte solo sulla sabbia e non c'è una sostanziale condanna che abbia delle conseguenze. Non solo, nel caso di Genova probabilmente andrà a una revoca della patente per 3-4 anni massimo. Con la nuova legge avrebbe avuto una revoca della patente di 20 anni ed è un disco completamente diverso. Tutto questo, le mancate applicazioni delle pene, le scarcerazioni veloci, i ribaltamenti dei verdetti e quindi anche l'aumento della pirateria, diminuirebbe con la famosa legge sull'omicidio stradale? Il suo relatore al Senato, Giuseppe Cucca, PD, assicura la sua funzione di deterrente e assicura l'approvazione entro fine febbraio, ma per prima cosa si scusa per quegli applausi dell'Aula. Il fatto stesso che questa normativa abbia avuto un iter tanto travagliato e sentito è il segnale che i problemi li conosciamo. Come dicevo, ho chiesto scusa perché comprendo, ho chiesto scusa a titolo personale e spiegando le motivazioni, ma non è certamente, non c'era nessun intento né di far sentire lontani o meno, perché intanto si sa che questa legge passerà e passerà in tempi estremamente brevi, con credo soddisfazione di tutti. Finalmente sarà vigente quella regola: chi guida non beve e chi beve non guida. Cosa cambierà davvero con la nuova legge? Lo scopriremo nella seconda parte di Storiacce, dove andremo a vedere anche come è andato a finire il caso giudiziario aperto a Ravenna dopo la morte di un bimbo di 3 anni che aveva portato la gente a protestare in strada. Storiacce. Hi Jay. My mate Jules fancies Please you. Don't. Pass. It's not a funny. No, it's not even funny now. Let me just get his number. Tre ragazzi in auto, un SMS divertente da mandare, lo sguardo sulla tastiera invece che sulla strada, fino allo schianto. Contro una prima auto, poi contro un'altra ancora. Nell'auto, tra i berghi esplosi, i vetri ovunque, il sangue, i corpi immobili di 2 giovani e di una terza che urla in cerca di soccorso. Poi, poco dopo, contro quelle lamiere andrà a schiantarsi ancora un'altra auto e il bimbo da dietro si chiede perché i miei genitori non si svegliano più. Con un video shock, la polizia inglese fa prevenzione sugli incidenti mortali provocati dal telefonino. Telefono, ma ancor di più alcol e droghe, sono le cause della maggior parte degli incidenti più gravi, dove a perdere la vita in genere sono però gli altri. Passanti che si trovavano sul marciapiede, autisti premurosi, gente che non avrebbe nulla da rimproverarsi, come il pensionato di Genova investito mentre andava alla fermata dell'autobus, o come il motociclista romano travolto dall'ultimo pirata della strada. Una tipologia di esemplare sempre più frequente questa nella giungla delle nostre strade, visto che, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, nel 2015 sono stati 1087 almeno i casi di pirateria stradale, con 146 morti. E pene, come abbiamo detto, spesso neanche scontate. Vicina all'approvazione finale, la legge sull'omicidio stradale sarà di nuovo bloccata tra gli applausi dell'Aula. Ma ora, promette a Storiacce il relatore, il senatore Giuseppe Cucca del PD, passerà entro febbraio e farà da deterrente. Alla Camera è passato col voto segreto un emendamento. Nell'ipotesi in cui il conducente, cioè il responsabile del sinistro, si fermi e presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, in questo caso l'arresto non è più necessario, obbligatorio, cioè in sostanza se si presta soccorso non c'è l'arresto, giusto? Esattamente, l'arresto rimane invece nel caso in cui da sinistra derivi la morte di una persona. Questo è stato, diciamo, l'emendamento che ha fatto saltare tutto. Abbiamo già esaurito l'iter in commissione e rimandato adesso all'Aula. Quindi a questo punto qual è la sua previsione? È prevista l'approvazione del disegno di legge sulle unioni civili entro 2 settimane e quindi immediatamente dopo lo faremo, salvo che non si trovi il pertugio nel quale infilarsi. Se tutto filasse liscio, secondo lei quando potrebbe essere approvata la legge? Beh, ad essere pessimisti entro il 20 di febbraio, ma ad essere pessimisti. Ormai la legge nel testo, nell'impianto, ha già la doppia approvazione. Noi dobbiamo soltanto valutare quell'emendamento che è passato alla Camera. Ci sono stati degli applausi in aula nel momento in cui la legge è stata stoppata. Mi permetto di stigmatizzare i comportamenti, diciamo, che sono stati gli applausi, sono frutto, diciamo, delle dinamiche d'aula. Il fatto di far andare sotto la maggioranza costituisce sempre un motivo di esultanza da parte delle opposizioni. Dispiace perché erano presenti i familiari di molte persone che hanno perso la vita e ovviamente queste persone si sono sentite ferite da questo atteggiamento. Ecco, lei immagina come si saranno sentite quelle persone, quei familiari di persone travolte da pirati dalla strada che erano lì speranzosi di assistere all'atto finale di una legge tanto invocata e invece hanno ascoltato gli applausi di un'aula contenta del fatto che il governo fosse andato sotto. Questi sinistri, frutto di pirateria stradale, sono in aumento e allora è evidente che è necessario che lo Stato in qualche maniera intervenga e costituisce una risposta finalmente seria. Ci spiega esattamente che cosa cambierà nel momento in cui questa legge sarà definitivamente approvata? Il nostro sistema aveva già le figure dell'omicidio cosiddetto stradale. Il problema che si è sempre affrontato è quello delle pene, perché avevano dei minimi di pena molto bassi e tendenzialmente si era portati a partire dai minimi o da pene comunque molto vicine al minimo e quindi si scendeva a delle pene estremamente basse. È inquadrato il tutto nell'ambito del delitto colposo. Quindi resta un omicidio colposo, la vera novità sta sulle pene, che come cambiano? Sull'omicidio colposo normale, insomma non la distrazione, rimane la pena da 2 a 7 anni. Poi si prevedono tutta una serie di altre fattispecie che sono riferite espressamente a quei casi cioè chi si pone alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. E in questo caso viene punito con la reclusione da 8 a 12 anni. L'esiguità delle pene e a volte la loro mancata applicazione è tra i motivi di maggiore amarezza per i familiari delle vittime, che vedono casomai chi ha investito il proprio caro poco dopo di nuovo in circolazione, o scoprono che mai è stata neppure revocata la patente a chi gli ha tolto il padre, come è stato per Eleonora Micheli, che si è trovata di fronte a tutti i problemi della macchina giudiziaria di Siena, come ci ha raccontato nella prima parte. Ma capita pure, quando la giungla della strada si unisce a quella della giustizia, di vedere ribaltata una condanna a 16 anni. Oppure ancora capita che per la morte di un bimbo di 3 anni, trascinato da un pirata della strada, i genitori ora si vedono pure respingere il risarcimento. Tanto che il sindaco di Ravenna è voluto intervenire. Fabrizio Matteucci. La tragedia di Jonathan di 2 anni e mezzo fa naturalmente ha colpito moltissimo l'opinione pubblica, come è giusto, perché un signore ubriaco investe un bambino sulle strisce pedonali e poi scappa. 2 anni e mezzo mi sembra una pena lieve. In più è stato negato il risarcimento dell'assicurazione, poi so che si andrà in giudizio, ma ugualmente io ho inteso dare voce a una cosa che penso, e cioè che non c'è giustizia che ripari la morte di un bambino. C'è però una giustizia maggiore di quella che è stata fatta in questo caso, sia dal punto di vista penale che dal punto di vista del risarcimento. Però ci faccia capire, cioè non è stato dato neanche il risarcimento ai familiari del bimbo? No, per ora c'è un diniego assoluto a qualsiasi forma di risarcimento, che mi dicono quelli che se ne intendono il normale avvio di un confronto che poi avrà uno sbocco in sede giudiziale. Intanto parliamo di anni, però anche per il futuro, se io guido devo sapere che se sono ubriaco e ammazzo qualcuno, è un po' a fondo come avere un fucile e sparare alla cieca. L'autista in Mercedes che aveva travolto ed ucciso il bimbo di 3 anni è già uscito? Sì, è già uscito, sì, c'è stato un patteggiamento. Le leggi sono totalmente inadeguate. D'altra parte basta andare verso il nord Italia, passare il confine con la Svizzera e vedere come, siccome Svizzera ha un codice della strada serio, noi italiani quando varchiamo il confine guidiamo diversamente. Ma con gli incidenti stradali, purtroppo, avevano a che fare pure nell'antichità, quando sulle strade c'erano solo carri. Linea allora alle mitiche storiacce e a Giorgio Geranò, professore all'Università di Trento e autore di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. Il problema di Roma è il traffico. Parliamo però di Roma antica, non di quella moderna. Se uno legge Seneca, Giovenale o Plinio il Giovane, trova tutta una sequela di lamentele sui problemi del traffico stradale. Il rumore, i conducenti di carri che guidano come pazzi, gli incidenti continui, pure i veicoli parcheggiati in seconda fila che intasano le strade. Anche la zona a traffico limitato, la ZTL, l'hanno inventata i romani. Un anno prima di morire, nel 45 a.C., Giulio Cesare firmò la Lex Iulia Maiestatis, che alcuni considerano l'antenata di tutti i codici della strada. Stabiliva tra l'altro che durante le ore diurne i carri non potevano entrare nel centro cittadino, esclusi quelli della nettezza urbana e pochi altri. I romani, si sa, erano del resto grandi costruttori di strade, viaggiavano molto e i problemi del trasporto erano in cima alle loro preoccupazioni. Ma si viaggiava molto anche nel mito. C'erano eroi che erano grandi viaggiatori, come Edipo, che aveva percorso molte strade della Grecia, a partire da quel primo fatale viaggio che lo aveva portato al santuario di Delfi, dove l'oracolo d'Apollo gli aveva predetto il suo destino: «Ucciderai tuo padre e ti unirai con tua madre». Come noto, appena uscito dal tempio, Edipo si imbatté in un conducente di carri che pretendeva di avere la precedenza. Litigò con lo sconosciuto e lo uccise, senza sapere che era appunto suo padre. E fa un po' effetto pensare che alla radice di uno dei miti cardine della cultura occidentale, alla fine c'era un banale litigio per questioni di precedenza. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it, ma scriveteci anche a storiacce@radio24.it, oppure ci trovate sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!